Abbiamo ancora qualche biglietto che riguarda i comportamenti che sono tipicamente dell'ego, anche se vanno. Cioè, per esempio, le lamentele è uno di questi comportamenti. Anche se quando noi facciamo lamentele facciamo vittimismo, però è chiaro che alimenta. Facciamo finta di essere delle brave persone che si lamentano perché gli altri non li capiscono abbastanza, non sono abbastanza buoni, generosi, eccetera. È la maschera che si fa lamentando, è un segno di debolezza, se non si viene dall'ego. Va bene, poi le accuse, perché le accuse? Perché c'è questa parte dentro che è così arrabbiata, quindi anche se da una parte la persona si sente indegna, colpa sua, dall'altra no. Dall'altra, in contemporanea, dice cosa tua, quindi punta il dito, accusa, anche accusa nei confronti del mondo, di Dio, di quello che volete, insomma, qualsiasi cosa vuole. Poi ci sono le pretese, perché doveva andare diversa la cosa. Pretese e accuse sono imparentate fra di loro. Poi c'è un'altra interessante, che è l'invidia, perché agli altri non è andata così, è a me va così. L'invidia fa parte della personalità depressa. Poi, per quanto riguarda l'energia, smorzare l'energia, perché la propria energia è bassa. Allora, negli equivalenti aggressivi, uno dei sistemi è smorzare l'entusiasmo altrui e si accompagna all'invidia, perché se l'altro è più di buon umore, più energetico, così, c'è un po' di invidia e adesso aspetta che gliela faccio vedere io, dando delle rispostine un po' in cui l'energia scende, facendo dei mezzi sorrisini, si chiama bella risata, si smorza l'energia dell'altro e lo si punisce. Poi autosvalutazione, l'abbiamo già detto, sta qua, io no, ok, altri ok. Autocriticismo, è di nuovo imparentato con l'autosvalutazione. Autopunizione, perché oltre a punire gli altri c'è comunque sempre una punizione, c'è una rabbia verso se stessi, perché io dovevo essere diverso e quindi c'è una punizione anche con se stessi. La compiacenza, l'abbiamo già detto, è quella che copre tutto, è proprio la maschera del depresso che compiace.